versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 25 secondi in diretta dagli studi di Milano. Vi saluta e vi ringrazia in questo inizio di settimana post natalizio e verso l'ultimo dell'anno. Oscar Giannino sempre in diretta, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, mentre per telefonare 800 24 0024, gli sms 349 238 6666. A cosa dedichiamo questa puntata post natalizia? Una notizia che stamattina l'avevo perso nelle cronache parlamentari, quindi la devo alla Stampa, al quotidiano La Stampa, che oggi a pagina 7 in un articolo di Carlo Bertini ha segnalato proposta di legge su un tema che mi auguro, spero, poi non lo so, magari telefonateci e fateci sapere la vostra opinione, stia un po' a cuore a tutti. Di che cosa si tratta? Si tratta, ve lo dico subito, delle pensioni dei giovani. Chi sono i giovani? Sono coloro che sono stati totalmente, tra virgolette, esclusi, tra virgolette, non avendo il numero minimo di anni di contributi versati allorché si approvò la riforma del passaggio del sistema previdenziale italiano da retributivo, come era prima della riforma Dini del 95, entrata in vigore nel 96 con un orizzonte molto lungo di attuazione, a quello prima era retributivo. Che cosa voleva dire retributivo? Una pensione agganciata agli ultimi anni di retribuzione nell'arco della vita lavorativa. E da quel sistema siamo passati al sistema contributivo. Sistema contributivo che invece fa derivare la pensione, cioè l'assegno quando si matura l'età pensionistica, dai contributi effettivamente versati lungo l'intero arco della vita di lavoro. Questi contributi vengono poi rivalutati secondo un montante che deriva da alcuni indicatori, da alcune grandezze, si chiamano moltiplicatori. Il primo è relativo all'andamento del PIL negli anni intercorsi, lungo l'intera durata della vita di versamento dei contributi. È ovvio che più basso il PIL, come in questi anni è stato, più basso è il moltiplicatore. Il montante non significa però, ecco, e con i suoi moltiplicatori, non significa che chi va in pensione in realtà vede il suo assegno pagato con i suoi soldi maturati, perché pur passando da retributivo a contributivo, la seconda caratteristica del sistema previdenziale italiano nella riforma Dini è rimasta invariata. Qual è questa seconda caratteristica che molti dimenticano? Quella di essere un sistema a ripartizione. Cosa vuol dire sistema a ripartizione? Vuol dire che le pensioni in essere, cioè gli assegni che vengono pagati oggi, sono pagati con i soldi versati oggi da chi lavora. Ecco, allora la somma di questi aspetti sinteticissimi del passaggio da un sistema all'altro e poi la riforma ovviamente Fornero, intervenuta alla fine del 2011, che ha di molto accelerato la unificazione dei sistemi di vecchiaia e di previdenza, quindi innalzando l'età pensionabile e innalzando quindi il progresso verso il quale c'è un adeguamento automatico dell'età per le pensioni di vecchiaia, che dipende dall'aspettativa di vita e quindi da come questa aspettativa si innalza nell'intero complesso della popolazione italiana. Tutto questo ha creato la situazione per la quale a oggi, in questi ultimi anni, le giovani generazioni che arrivano sul mercato del lavoro drammaticamente tardi e con contratti di lavoro drammaticamente a tempo, e resta così anche in questo 2015, perché l'effetto del Jobs Act non è affatto quello di far diminuire il lavoro a tempo, si trovano sulle spalle l'onere di dovere oggi finanziare assegni previdenziali maturati con altro sistema, ne abbiamo parlato tante volte, in cui ci sono tante gestioni che magari hanno trattamenti retributivi però che sono stati maturati in alcune gestioni speciali a condizioni di favore rispetto a tutte le altre e quindi hanno assegni molto maggiori di quello che hanno altri col semplice retributivo, ma meno agevolati per così dire nelle condizioni in cui funzionava il loro sistema. E tutto questo però sull'orizzonte di generazioni che alla fine non avranno minimamente pensioni raffrontabili rispetto alle loro ultime retribuzioni con quelle delle generazioni precedenti, a cui nel frattempo avranno continuato a pagare le pensioni retributive. Allora, questo problema, che è un problema di fondo, perché vi do questo altro dato: nel rapporto 2014 uscito 3 settimane fa da parte di Banca d'Italia sullo stato dei redditi e dei patrimoni delle famiglie italiane, uno dei dati più clamorosi era l'andamento della ricchezza, cioè del patrimonio, dal punto di vista delle diverse generazioni. E questa frattura, che nella società italiana era ormai drammatica, si sintetizza in questo dato. Negli anni tra il 1995 e il 2014, cioè dalla riforma Dini al 2014, in 20 anni, il patrimonio, cioè la ricchezza delle famiglie cui capo famiglia è sopra i 65 anni, è passato da un valore 100 del 1995 a un valore 160. Mentre quello delle famiglie i cui capo famiglia sono inferiori a 35 anni, da un valore 100 del 1995, è sceso a 40. Voi capite che c'è una differenza abissale, e una delle componenti di questo effetto clamoroso, altro che Piketty, la distribuzione dei redditi, qui c'è un problema enorme di distribuzione della ricchezza, cioè dei patrimoni, ma è tra le generazioni. Uno degli effetti che determina questo clamoroso squilibrio, che via via si aggrava, è proprio il sistema previdenziale. Ho detto uno, naturalmente incide anche poi molto sulla minore ricchezza dei giovani il fatto che lavorino molto meno e che hanno rapporti di lavoro non continuativi, però un effetto di fondo è anche quello della pensione. Che si può fare di fronte a questo, visto che il più del dibattito politico anche a fine 2015 è stato invece sui prepensionamenti delle generazioni più anziane, la proposta di Tito Boeri e così via, ma il problema di cosa fare per i giovani che si trovano in queste condizioni sembra lontano dall'agenda politica. Ricordo anche che l'età media del nostro paese alla fine del 2015 è di 45 anni e questo i politici lo ricordano bene, quindi in realtà i giovani come votanti sono perdenti un po' per definizione, a dire la verità. Allora, la notizia che mi ha colpito è stato un progetto di legge depositato per affermare un diritto delle giovani generazioni a una pensione decorosa. Vedremo di che si tratta, se è un ha senso mettere un principio di questo tipo con una legge ordinaria, che magari poi conta poco, se è un primo mattone a cui bisognerà far seguire delle scelte concrete, però, perché altrimenti è solo una dichiarazione di principio. Però mi sono detto, parliamone, perché per la giustizia tra le generazioni secondo me bisogna spendere molte parole, perché la politica mi sembra distratta. Allora, abbiamo con noi, la novità è che poi questo progetto di legge è trasversale, cioè ha delle firme di parlamentari oltre che del partito a cui appartiene il primo firmatario, che è Scelta Civica, però lo hanno firmato anche parlamentari non solo di altre parti della maggioranza come il PD, ma anche di partiti dell'opposizione. C'è la segretaria di Fratelli d'Italia Meloni, ci sono parlamentari di Forza Italia, ci sono parlamentari alfaniani di Alleanza Popolare, c'è un parlamentare che appartiene all'area di Fitto, ex Forza Italia, e quindi gode di un consenso trasversale. Allora, il primo firmatario che ha ideato questo progetto di legge è con noi, insieme a un esperto che io chiamo spesso in materia previdenziale. Allora, vi presento due ospiti, sono con noi e li ringrazio. Innanzitutto Andrea Mazziotti, che è deputato di Scelta Civica, nonché presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, primo firmatario di questo progetto di legge. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, onorevole Mazziotti. Buon pomeriggio, grazie a voi. E poi io ho chiamato anche Giuliano Cazzola, ex deputato esperto di welfare e previdenza, che è un po' uno dei punti di riferimento obbligato quando si tratta di equilibrio o squilibrio del sistema previdenziale. Buon pomeriggio e grazie Giuliano di essere con noi. Grazie, grazie, buonasera. Allora Mazziotti, ci spiega in realtà in che consiste il progetto di legge, quali sono le sue finalità, se ha dei limiti, è il primo mattone, cioè? Sì, è chiaramente un primo mattone e è un disegno di legge costituzionale, è una proposta che mira a inserire nell'articolo 38 della Costituzione, che disciplina l'argomento delle pensioni, un principio semplice, e cioè che gli istituti pensionistici devono essere basati su principi di ragionevolezza, equità e non discriminazione tra le generazioni. Questo dovrebbe essere un principio ovvio, e partendo dal nostro principio di uguaglianza dovrebbe essere come dire implicito nella nostra Costituzione, però come ha detto lei prima e come ci ha ben spiegato, in realtà il principio di equità generazionale è un principio che non viene preso in considerazione su mille argomenti, questo è solo uno, ma è chiaramente uno molto importante. Ed è emerso in modo clamoroso in questi ultimi mesi, c'è stato un rapporto OCSE impietoso che ad esempio parlava di un aumento di una differenza di povertà tra i giovani e i meno giovani sproporzionata rispetto al resto d'Europa, parlava di un'età di uscita dal lavoro effettiva molto più bassa in Italia rispetto agli altri paesi dell'OCSE, dava insomma un quadro che poi è stato confermato anche dal presidente dell'INPS Boeri, per il quale i nostri trentenni hanno davanti una prospettiva di pensione che li porterà a ricevere la famosa busta arancione, non sappiamo con scritto cosa, probabilmente qualcosa tipo buona fortuna. Ecco. La busta arancione, che... ricordiamolo, la busta arancione, l'hai troppo solo per dire ai nostri ascoltatori, è la comunicazione che l'INPS è preso un impegno di avviare prima in forma sperimentale e poi di estenderla tutta, con la quale con una scansione temporale lungo l'intero arco di vita contributiva si informano i lavoratori intanto di come sta maturando allo stato attuale, quale sarebbe la loro pensione quando raggiungono l'età pensionabile. Non è potuto partire la prima serie di decine di migliaia di lettere per Natale perché l'INPS ha detto abbiamo finito i soldi per la francatura e le poste non ce l'ha fatte partire. Per un motivo ancora più grave, che in Parlamento non è passato il tentativo di aumentare i fondi, esatto. E anche lì ci si dovrebbe fare delle domande. Va bene, sì, effetto. La finalità chiaramente, come lei ha detto prima, è quello di porre un principio di base, di costringere a una discussione. Io non sono un esperto di pensioni, ma credo, e come ha detto lei giustamente, i firmatari sono firmatari di varie aree. Quello che mette in comune persone dalle posizioni diversissime, come potremmo essere io e l'onorevole Meloni, su mille argomenti, incluse le pensioni, certo, è l'idea che non si possa continuare a legiferare su questo argomento senza tener conto di quello che succede dopo, e ad oggi è successo questo probabilmente per i motivi elettorali di cui le ha parlato prevalentemente. Allora diciamo che secondo me, ma questa è un'opinione mia assolutamente minoritaria, io sono tra quelli che come Hayek e tanti altri inascoltati microbi minoritari liberali decenni e decenni fa dicevano, in un paese moderno in cui la mano pubblica, il prelievo fiscale, la spesa pubblica è così elevata e lo diventerà sempre più come si vede, bisognerebbe introdurre questo principio dell'equità intergenerazionale come un principio di fondo di tutte le materie di scelte economiche che hanno un orizzonte pluriennale, a cominciare dal debito, le tasse e così via, e naturalmente le pensioni, perché altrimenti le assemblee legislative hanno un orizzonte temporale corto di interessi, è chiaro, le prossime elezioni, mentre si trascura del tutto il fatto che i debiti, le spese o la mancata pensione, a seconda di come si fanno le riforme, ricadono poi sulle generazioni successive. Ovviamente principi di buon senso, ma il punto di fondo è che mi pare di capire che con questo disegno di legge voi volete soprattutto aprire, mettere un grimaldello nelle mani della Corte Costituzionale, perché, domanda Giuliano Cazzola, mi pare che fino a questo momento, mentre si sprecano le sentenze della Corte Costituzionale come quelle del 2015 che hanno riaperto la perequazione e così via che era stata bloccata, ma il principio dell'equità intergenerazionale nelle sentenze della Corte in materia previdenziale c'è pochissimo o non c'è per niente, come mai, Cazzola? Ma io innanzitutto voglio dire che con questa formulazione io non ho nulla da dire, insomma, perché introdurre nella Costituzione al secondo comma dell'articolo 38, che secondo me è già molto, molto chiaro, nel senso che parla che i lavoratori devono essere hanno diritto sostanzialmente a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattie, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria. Quindi tu dici il principio c'è già? No, dico sì, però c'è già, quando si parla di mezzi adeguati, insomma, in pensione ci si va da vecchi, insomma, non è che ci si va da giovani, però un discorso di equità generazionale è un discorso che indirizza anche il legislatore, nel senso che il legislatore è tenuto a fare delle politiche che guardano all'equità generazionale, cose che il legislatore non ha fatto con molta lungimiranza fino ad oggi. Però io vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 4 della Costituzione, sì, perché la pensione è un accessorio del lavoro. Cioè il problema dei giovani, io su questo insisto, non è che il sistema contributivo sia un sistema di per sé penalizzante, sì, il problema dei giovani è che in sostanza accedono al lavoro tardi, mm-hmm, hanno rapporti di lavoro saltuari, per cui al momento della pensione si trovano a scontare questa loro condizione di professionale e di vita, insomma. Quindi il problema lo si risolve con l'articolo 4, ecco, non con l'articolo 38, anche se io ho dato parola d'apprezzamento per questo disegno di legge. Tenga conto che oggi, in pieno sistema retributivo, ci sono dai 3,5 ai 4 milioni di pensioni integrate al minimo. Sì, sì. Quindi anche chi non, cioè il sistema retributivo. Non è l'equazione retributivo uguale regali, no, ci mancherebbe. Il problema, insomma, il problema è che la pensione è un accessorio del lavoro. Io poi sono per pensare ad un sistema diverso. Io, quando ero deputato, presentai anche un progetto bipartisan che prevedeva per i nuovi occupati, quindi per i giovani, un diverso sistema costituito da una pensione di base finanziata dal fisco più la pensione contributiva obbligatoria. Sono d'accordo, infatti, su questo. Questo era, secondo me, piuttosto che continuare a pensare ai vecchi, esatto, come fa per lo stesso Boeri, bisognerebbe mettere in piedi un sistema così. E come abbiamo già parlato proprio con lei, con un'altra puntata, con altri ospiti, qualcosa di simile dovrebbe avvenire anche in materia sanitaria, secondo me. Però, detto tutto questo, adesso torniamo tra un minuto perché c'è un'informazione stradale, resta il punto che il dibattito attuale, io capisco le obiezioni di Cazzola, che pure è favorevole a questa proposta di legge costituzionale, però è vero che noi continuiamo a parlare solo di interventi, magari in deficit, lo ha fatto anche Tito Boeri con le sue proposte, che servono solo ai prepensionamenti, in deficit, quindi si aggrava ulteriormente lo squilibrio del sistema, ma solo per pensare alle generazioni più avanti di andare prima in pensione, cioè per i giovani non si pensa mai. Allora, per questo dico che c'è bisogno di un segnale che dica no, però non si può andare solo in quella direzione lì, perché gli altri ce li dimentichiamo sempre. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, parliamo di un disegno di legge costituzionale, primo firmatario l'onorevole Mazziotti, che è di Scelta Civica, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, firmato in maniera trasversale da parlamentari del PD, dell'opposizione di Forza Italia, di dissidenti di ex Forza Italia, dalla leader di Fratelli d'Italia. Obiettivo quello di introdurre con un disegno di legge costituzionale un richiamo esplicito alla giustizia intergenerazionale in materia previdenziale. Mazziotti ce l'ha illustrato, Giuliano Cazzola ha obiettato, sì, però il problema fondamentale si risolve innanzitutto con l'articolo 4 della Costituzione, cioè col fatto che i giovani devono lavorare in maggior percentuale, partecipare al mercato del lavoro, arrivarci prima, non essere discontinui nei versamenti contributivi, cioè non avere rapporti attivi. Tempo. La mia obiezione è però che si continua a discutere solo di interventi in deficit, come restano anche le proposte di Tito Boeri per gli over 55, che servono solo alle generazioni più avanti. Questo è lo sfondo. Sentiamo una telefonata intanto. Valerio, che ci chiama, non so da dove. Da dove ci chiama Valerio? Monza Brianza. Da Monza Brianza. Allora Valerio, che ne pensa? Allora, io penso che, avendo 60 anni, quando sono andato al lavoro c'era il discorso dei 35 anni. Uh-huh. Per me è un diritto mio acquisito, così come parlano i parlamentari, eccetera, che hanno il loro diritto acquisito, eccetera, era dopo i 35 anni. Non capisco perché adesso non vada, io non sia andato in pensione, quando dico 35, 37 anni, lasciando il mio posto di lavoro, magari a mia figlia che a 30 anni ha avuto per la prima volta il primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ok, allora qui il problema non è cioè che non c'è lavoro, non si è capaci di far arrivare quel lavoro, i nostri politici non sono capaci e sanno solamente fare delle leggi per sistemare i conti, quando i soldi che ho versato io dove sono andati? I soldi che ha versato lei sono andati anno per anno a pagare le pensioni che c'erano. Io li davo, scusate, l'interpretazione è che io in quel momento lì là, in quel momento li davo per me stesso. Questa è la vostra interpretazione. Ma non è un'interpretazione, le posso garantire che non è un'interpretazione. Il sistema di ripartizione funziona come le dico, è quello che voi continuate molti a fraintendere. Il sistema di ripartizione, il monte contributi raccolto anno per anno va a pagare le pensioni che ci sono. Voi pensate che sia un contratto intangibile, non è così, nel senso che ci sono montagne di sentenze della Corte Costituzionale che consentono gli interventi per perché siccome c'è un bel sovrappiù di fiscalità generale ogni anno, come evidente, da giudizio della Corte, non parlo di me, si possono cambiare i termini della maturazione in termini temporali del diritto e anche il meccanismo con cui i contributi vengono, tra virgolette, moltiplicati per alcune coefficienti, cioè il sistema, fatte salve alcuni criteri generali di equilibrio, di garanzia, di eguaglianza. E infatti è per questo che abbiamo avuto un orizzonte della Dini molto lungo e così via. Però voi continuate a equivocare tutti pensando che i contributi che versate servono, sono lì, messi da parte per il vostro futuro. Non ha mai funzionato così e non continuerà a non funzionare così, purtroppo. Allora, Mazziotti ha sentito le osservazioni di Cazzola, è favorevole, ma dice però in buona sostanza la soluzione vera sta altrove. Lei che dice, Mazziotti? Ma io dico che ovviamente per finanziare il sistema serve più lavoro, e attraverso il lavoro, la crescita, l'aumento del PIL e l'andamento dell'economia, che si finanzia un sistema pensionistico più equo, benissimo. Però io penso che un legislatore debba legiferare con quello che ha, e quindi prendere i dati attuali, la crescita attuale, il sistema pensionistico attuale inteso come struttura di chi contribuisce e chi contribuirà, la curva demografica, e poi mettere in piedi un sistema pensionistico che funzioni in maniera non discriminatoria tra l'oggi e il domani, perché il principio del diritto acquisito a cui faceva capo riferimento l'ascoltatore e a cui giustamente ha richiamato i politici, io sono sto portando avanti nella mia commissione la modifica della legge sui vitalizi che è stata finalmente calendarizzata da noi di Scelta Civica per questo, perché il principio di diritti acquisiti è un bellissimo principio, ma serviva a tutelare, diciamo, le conquiste dei redditi più bassi, e per questo era stato costruito. Non può funzionare, esatto, in materia pensionistica per diventare chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Cioè, con questo meccanismo, se si tutelassero tutti sulla base di questo principio, non ci sarebbero state riforme, e i prossimi che arriveranno, i giovani che arriveranno, la pensione non ce l'avrebbero per niente, soprattutto considerando che i contributi li versano loro. Quindi, esatto, seguendo il ragionamento dell'ascoltatore, i soldi per la sua pensione non ci sarebbero, esatto, se basta, i giovani se non versassero i loro contributi. La realtà è che bisogna ripensare il sistema, e ripeto, ci sono posizioni diversissime su questo tra i firmatari della nostra legge, certo, ma bisogna arrivare a ripensare il sistema per dire: io oggi, legislatore, ho messo in piedi un sistema che, stando così le cose, dà le pensioni a chi va in pensione tra 5 anni, sì. Le darà ugualmente a chi va in pensione tra 20? No, c'è qualcosa di sbagliato. Esatto. Questo è il problema, non è per quelli che sono già andati in pensione, anche perché no, certo, prossimo. È chiarissimo. Non si tratta di rimettere in discussione i trattamenti, tranne che, ripeto, io mantengo sempre una finestra aperta per alcuni del retributivo oltre una certa soglia, per alcune gestioni speciali, però questa è la mia opinione. Giuliano Cazzola, quanto pesa nel dibattito pubblico che resta focalizzato su interventi anche in deficit, ripeto, Tito Boeri, ma solo per prepensionare, il fatto che ovviamente il peso dei sindacati e dei lavoratori più avanti come corte d'età c'è rispetto alla scarsissima presa che ne hanno tra i lavoratori precari più giovani. C'è questo fattore o meno nel predeterminare l'indirizzo obbligato verso le corti più anziane invece che per i giovani? Sicuramente, se lei pensa che, per esempio, la questa vicenda degli esodati, no? Che io giudico essere al limite dello scandalo. Siamo arrivati a fare 7 salvaguardie, cioè di persone in buona sostanza che avremmo potuto probabilmente destinare meno risorse per trovare loro un lavoro. Pensi che noi spenderemo a regime 12 miliardi, sì, per sulla carta sono 170.000, poi si vede che i conti sono stati fatti per eccesso, perché a ogni salvaguardia ci sono degli avanzi, no? Ci ho detto, però io vorrei anche ricordare ai giovani che la situazione patrimoniale dei padri e dei nonni finisce poi a loro, no? Io ricordo uno studio della Fondazione Agnelli anni fa che aveva calcolato di quanti immobili diventeranno proprietari. Giuliano, giovani, sì, però siccome domani, le aspettative di vita contano, cioè non è che chi ha oggi allora, 25 anni può aspettare 30 anni per ereditare. No, certo, a quel signore che lamentava la storia dei 35 anni, io voglio fare semplicemente un calcolo banale, no? Supponiamo che uno cominci a lavorare a 18 anni, anche a 20 anni, no? E che lavori 40 anni, arriva a 60 anni. Davanti a sé un'attesa di vita di 20 anni, che peraltro è destinata a aumentare, esatto, tutti qui andando in avanti, no? Allora, qual è quel sistema che ogni 2 anni di lavoro è in grado di garantire 1 anno di pensione. E noi con la pensione di anzianità ci siamo svenati, cioè le vere cicale del sistema sono stati pensionati di anzianità, che poi non è colpa loro, perché le regole non le hanno scritte loro, però loro ne hanno beneficiato. Loro ne hanno beneficiato, si tratta di milioni di italiani, si tratta di milioni di italiani che peraltro sono andati in pensione senza avere una reale penalizzazione, cioè con pensioni piene ridotte soltanto perché il moltiplicatore funzionava su 35 anni e non su 40. Allora, giusta osservazione, naturalmente quelle non le si potrà toccare. C'è un altro ascoltatore, Mario dalla provincia di Varese, rapido Mario, che pensa? Buonasera signor Giannino, vorrei dire una piccola precisazione. Sì. Titolo normativo, se una riforma costituzionale deve per forza passare 2 volte dal Parlamento. Certo. 2 volte con la pausa necessaria indicata dalla Costituzione tra la doppia approvazione, eccetera, eccetera. In teoria, entro la fine della legislatura, se va a scadenza ordinaria, ci siamo ancora. Che dice Mazziotti? Si può fare anche perché è un comma, non è che si tratta di una discussione che richiede centinaia di migliaia di emendamenti, si tratterà di magari fare dei piccolissimi aggiustamenti e poi di votare. Sono a favore o contro. Secondo me sarebbe un segnale comunque, inutile illudersi, però sarebbe un segnale, soprattutto verso la Corte Costituzionale e per il resto della politica. Quindi secondo me è un segnale incoraggiante anche che ci sia un consenso trasversale su una cosa come questa. Quindi non solo per pensare ai prepensionamenti, anche se so che questi sono più popolari, i diritti dei giovani. Grazie onorevole Mazziotti, grazie Giuliano Cazzola, continuate su Radio 24, c'è Focus Economia, anche se non è Sebastiano Barisoni a condurlo, ma noi su Radio 24 siamo sempre qua e appuntamento come domani mattina alle 8:15 con Attenti a noi due.